quello che c'avevo prima, tu, quello lì l'ho dato, ne ho un altro adesso, cerca il Cobra DX2000 e lo vedi tutte le caratteristiche. Esce bene, sì. Poi con questo microfono nuovo va molto bene, questo microfono mi sta soddisfando, dai. Me l'aveva fatto conoscere Marco Condor e me l'ho coordinato anch'io da internet. Che cosa è? È una marca strana, GDX, mi pare si chiami. Ma non è tipo microfono a tavolo? No, la tavolo. È buono però, molto buono il microfono. Si chiama KPO, vai e cerca. KPO. E che roba è? È un microfono nuovo, mi pare che sia tedesco, non lo so. Però è un microfono nuovo, di nuova generazione, fatto da poco. È un nuovo tipo di microfono amplificato. Sì, va bene. Mi ha soddisfatto. L'unica cosa che c'è è che mi si è rotto subito quel pirillino che tiene il coso della portante, no? Quando la schiacci, ce l'hai presente quel pirillino di plastica che tiene? Ho dovuto fare una modifica con una vite, fare un buchettino e mettere una vite al posto di quello, ma già va bene. A parte, un colpo importante. E magari stava provando a stazionare. Sicuramente. Hola, hola, hola. A parte. Ma andare. L'hai visto, l'hai sei andato a vederlo, DX2000 si chiama. Cobra? Eia. Aspetta. O 200, aspetta, 200 forse. 200? Sì, 400. E quello, l'ho visto. Santo. Sì, sì, sto guardando, è frequentimetro. Eia. È un bel apparecchio. È giallo, credo, è giallo. Ciao Luca! Ciao, già, fate, fate. E beh, a prendere sempre, è andato, sì. Sì, salve. Vabbè. Fate, deve ancora arrivare, già. A pila freddo. No, ma l'ha agitato. Allora, vediamo. Ma mi sa che ha messo brutto tutta questa settimana. Ma ha detto che la domenica si riprendeva il tempo. Ma a me non è il freddo, che è il vento e il mare. Se non ci sono quelle condizioni, inutile che andavi. Ma non freddo di gribba, Lo sai che è un amico mio che andava a pescare di notte così, gli è venuto una parisi dal freddo, una parisi facciale. Hanno fatto in tempo a prenderlo in tempo, perché sennò le rimaneva tutto storto, tutta la bocca storta c'aveva. No, di notte non ci va. Di notte andavo quando a surf casting, quello sì, andavo di notte, di giorno non mi piazzia. Io a fare surf casting vado dalle 8 in poi, dalla sera alle 8 al tramonto, sino a volte se si pesca, se vedo che si pesca mi trattengo sino alla mattina presto, se no me ne vado verso le 11:30, mezzanotte. Sì, bisogna andare quando c'è ancora un po' di luce, è tempo di preparare tutte le cose, allora, non a buio già. Vabbè, riprendete. Io già sono già tutto pronto, ho tutte le calate pronte, nei sugheri, non faccio altro che svitare il sughero, c'è il moschettone nella cala da pesca, c'è il moschettone, gli attacco, c'è l'occhiello nell'amo, attacco l'occhiello e fatto il gioco. No, io anche se esco uscivo con tutto pronto, già il calamento attaccato, che dovevo usare attaccare all'esca, però se dovevo uscire, dovevo seguire la manco un'ora prima che fazia buccio. Non mi piace andare a buccio e accendermi la pila per andare in spiaggia o sugli scogli, sempre a luce, per sicurezza. Paura, no. Io alle scuole di notte non ci vado più, dalla volta che è caduto con l'amico mio a Stintino, ce l'abbiamo vista brutta. Poi vabbè già, ma non è che devi abbandonare, ma vuol dire che è stata una tua scelta, non tanto la paura che hai visto quello. E tanti cose vedi, ma allora che non dovevamo più fare. Cosa c'entra? Guarda, sì, attento, io andavo lì a Morai, dove c'è la chiesetta, mi facevo tutta la scarpata e già se lo strappiamo poi che c'era lì. A pescare, se ti fa la vita di chi, lui è che attacciapava. soprattutto quando stavo recuperando il pesce, ogni cosa di 15 metri, che vedo, ogni strapiombo. Però la soddisfazione c'era e ci si andava. E non ti cadeva Resciara che da lì? Una giubbessu, ma i chivi mostri a buccavano, ma voi ci manca tempo a lanciare e appusate che era già tirente. E infatti ti dicevo, la soddisfazione c'era, è come se c'era, ma se era allamato bene, è che ti stancava di tirarli su me da quell'altezza, perché anche c'era il peso del pesce, del piombo, pare sì, ma lo mulinello comunque a tirarlo su così faceva fatica, ma c'era la soddisfazione però di andare in quel posto. E non c'è un posto per scendere giù? Sì, c'era poi, sempre da lì, dallo strapiombo, sempre nella roccia c'era un punto dove l'acqua era a un paio di metri, capito? Era proprio piccolino il pezzo già, cioè, dovevi proprio lì stare attento veramente a che si parava in neva, perché era piccolo il posto, capito? Infatti lì ci andava chi pescava galleggiante, perché rimaneva con l'insenatura e pescavano chi andava galleggiante. Capito. Già me l'avevi detto che andavi lì, un po' più avanti nella chiesa di Balai vicino lì c'è un lampione e lì si pescano molti i calamari. Me l'avevi detto. Lì si pesca bene i calamari, se è come era prima, anche i 12 li hanno presi. Penso che ci sia il passaggio lì, una cosa è perché vedono la luce del faro che c'è, che illumina la chiesa, capito? Momento, che nella rotonda c'è, in fondo agli scogli lì c'è molto porco, mi hanno detto. E alla rotonda si sa, anche io ci andavo a trovare i pulpi, ma adesso non c'è più nulla, tu, non so più pigliare nulla. Pure una lì era mia spiaggia, un pizzino è andato, gatto l'ha tirato roba di poi, boh, dove apre con breco. Magari capita uno su mille. Già venne. Io andavo dietro al quinto pettine, dietro le scogli del quinto pettine, facevo tra il quinto e il sesto, andavo dietro dove c'era da affondare. E lì prendevo seppi e polpi di tutto e di più. Ma adesso non c'è più nulla, roccali, ho preso una scoffa non ben grande, sono dovuto uscire fuori perché avevo paura che mi pungesse, sono dovuto uscire fuori per toglierlo. Mi sono dovuto di nuovo fare la strada per tornare indietro, perché era un bel grande e avevo paura che mi pungesse. Cavolo, lì è pieno comunque, ce n'è, ma secondo me ce n'è ancora. E poi ad esempio ricordi che quando ne prendi una c'è anche l'altra sempre, perché vanno in coppia. Mia madre di vecchia. Buone sono le seppie due piselli, oppure i calamari appena pigliati, dozzi sono appena fatti. Sì, sono buoni, sì. I calamari per me la morte sua è farli fritti, non ve ne... È vero. Io li ho mangiati ripieni, arrosto, di tutte le maniere, ma fritti mi piacciono di più, per poco di va. Appena pescati, sono dolci dolci. Rosso, questo è poco, quello diventare molto, è quello di frittia. Quello è il polpo. In fritta lo devi mettere. Polpo sì, il polpo. Ma io lo faccio per la pressione ed è morbido lo stesso. Io l'ho fatto anche da poco, l'ho messo per la pressione, me l'ha regalato un amico mio, me l'ha regalato uno. E sarà stato 2,5 kg così. L'ho messo per la pressione ed era morbido. Se non anche questa mente la gara adesso poi, mi pare che non lo prendo. Questi giorni me lo posso. Appena pescato, me l'ha, la notte l'ha pescato, la mattina me l'ha portato. Ma chi c'è roba nuova, amico? Era un grido io. Ma lui non prende solo quello, lui con le reti prende aragoste, mida di tutto. L'altra volta mi ha dato due aragostine e ultimamente mi ha dato una capramarina di quelle belle grandi, me l'ho mandata anche a Luca la fotografia, una capramarina bella. E vabbè, io gli faccio favori e lui contraccambia. Faccio il mare buono. Oh ya, esci va a far mangiare, va. Ma così presto, Antu, che ore sono? Vai vedere. Quasi le 7 sono. Vabbè. Vai a mangiare allora, dai, se stai chiudendo chiudo anch'io. Buonanotte. Cosa? Che governo? Che chiaro? Luca! c'ho già. Poi lui. E tanto, mi sono vicino a casa tua già, da, più o meno. Lì in Viarda, c'era un circolo su alla fine del, di Viarda. C'era un gruppo che suona alla Sassarese, in questo circolo. Ah, lo so, Via Nuvi non è Viardana, quello è Via Nuvi. Via Nuvi alla fine verso la Pinetta lì. Sì, sì, Via Nuvi, scusa, sì, Via Nuvi. Sì, ho capito che circolo è. E beh, e che gruppo c'era? Pirudo, dai. Ma di quelli improvvisati, di quelli dai, che gli piacciono le canzoni e le suore. Ma cosa improvvisati, cazzo? C'era Paulesio pure. Ah, cavagliava. Vabbè, tu sei appassionato di canzoni sassarese. Già mi piacciono, dai. Ma, sì. Io ho già cantato Faccia di Bruda, ho fatto anche la presentazione. E da Sassari con furore Faccia di Bruda. Eh sì, via. Mi sono poi mal di testa, mi sono riposato stasera. Abbiamo pranzato, siamo usciti presto. Mi sono fatto l'altro paio di l'altro regalo. Cazzo, roba di no. Praticamente se andavo a comprare domani costavano 150 euro, li ho pagati la metà, 77 euro 50 centesimi, il Ray-Ban. E io invece li ho buttati via perché mi sono rotto il coso dove ho vita la vitina della stecca, là. Altro che non si poteva aggiustare, che la mano vecchia, con i viti sono particolari, non si trova, la vedi, oggi tutti, oggi miglia del luci. E quello lì la birra, me che ti fa venire mal di testa. No. Io ho bevuto, in un bar, ho bevuto e come? E poi non ho rimasto il capo, no. Non vedi freddo già. Io adesso dovrei uscire in cuffietta, almeno. Quando me ne scendo dalla macchina, poi ci sono anche l'aria a casa, mi ha un po'. Mi ha attembato, dai. Che marca sono gli occhiali tuoi Ray-Ban sempre? Che Ray-Ban ti è preso? Di quelli tipici oppure di quelli quadrati? Se me l'hai visto quelli marroncini, sono uguali, neri, ne ho preso neri. Allora, domani pago 155 euro. E dove l'hai presa, Lulu? Lì a Lausanne. Ho capito. Vabbè. Se ti serviva. No? Cosa hai detto? Ho detto, se ti serviva l'hai fatto bene che te li hai presi, io invece mi devo comprare l'orologio perché ho tre orologi e non ce n'è uno che funziona più bene. Tutti orologi belli, crono, coso, ce n'è uno che è l'Eco Drive, tutti gli altri fasciati, non ce n'è uno che funziona. Guarda, io ho questo blaze, ce l'ho già 2 anni, ed è come una bombetta. Ma questi qua, allora, praticamente quell'Eco Drive l'ho portato all'orologiaio perché mi si era fermato e mi ha detto che c'è un accumulatore interno che vuole cambiato ed è come una batteria. E praticamente questo è solare, no, l'Eco Drive. Si carica col sole, con la luce del sole. Gli ha cambiato questa batteria, mi ha preso 20 euro per cambiarla. Ha funzionato per un po' di tempo, adesso se ne va indietro di ore e ore, capito? Non di poco, di ore. Funziona per 2 o 3 giorni e poi di nuovo comincia da capo a andare indietro. Adesso mi sono rimasta una cipolla e uno di quelli che si mettono con l'abito d'oro, con la cintura di coccodrillo, però quello lì non è molto comodo perché se ti devi lavare le mani si bagna la cintura, il cinturino e ti si rovina. No, questo che ho io c'ha le cinghie d'acciaio, c'è una ciaffa, sono fatto 100 scontato, era 110 mi sa, so costava 125, c'è l'altro, quella cosa qua, il colore di verde nello schermo, capito? Se vediamo, se ne faccio un regalo, fatto mezzo convenire regali, non hai sentito regali da nessuno. Io il sector l'ho pagato 380 euro, il sector, il crono. Questo qua mi è venuto sullo 180, questo solare, quello che c'è con i pannelli solari, 180, 185, adesso non mi ricordo bene, l'ho comprato su internet proprio dalla casa. E poi, vabbè, quello dopo me l'hanno regalato alla cresima, ed è di quelli ultrasottili, quelli belli che si mettono con l'abito, capito? Già va bene, dai. Già va bene. A me piace poco. Io ho anche il Festina, come avevo regalato, però siccome ci ho messo su di sopra, perché mi ha caduto, avevo cambiato il letto, per le cinghie nuove avevo messo le cinghiette, non sai che l'ho ampato, regalo un gradito. Vabbè, io sto guardando su internet e poi ho visto che stava rifunzionando perché mi si è bloccato e sono andato a questo negozio e ho detto se c'erano le batterie, e lui mi ha detto sì sì ce l'ho anche per questo. Ah guardate, mi ha detto no, questa proprio non ce l'ho. Ed è la rimessa, come la rimessa ha cominciato a funzionare di nuovo. O che c'è uscito dall'interno, come la mossa, stava funzionando, ha durato due o tre giorni e poi di nuovo da capo. Se non va, non va. Tu devi stare lì a perdere tempo. E infatti, l'unica cosa è prenderlo nuovo. Mi adesso, quando mi danno la pensione, qui deve almeno un paio di giorni. Forse è l'unica. Ma Anto l'ho chiuso. Ha detto che andava a mangiare. È vero. Ma tu in che sito cantavi? Quando cantavi, io mi ricordo che tu cantavi una volta, l'avevo cantata anche io, mia figlia, te lo ricordi? Sì, sì, aspetta un attimo, già sto girando un messaggio, aspetta, due secondi ti rispondo, aspetta. Comunque si chiama Paltak. Ah, su Paltak cantavo. Esatto. L'ho avuto anche io nel computer quello di Paltak. Sì, sì, ho capito. No, io... Dove sono io sto bene, mi trovo bene, perché la sera c'è anche il salotto, ci sentiamo, parliamo, come fai tu nelle live, è la stessa cosa. Un messaggio, questo tipo che sta mandando il cane, che lui ci tiene un sacco, c'è un tumore, non si può fare niente, è un pinche ladro, un chihuahua. C'è un tumore? Sta morendo. E anche uno vicino a casa l'hanno operato ai testicoli di tumore, però si è ripreso bene. Si è fatto tatuaggio nella coscia, si è fatto il cuscino col suo cane, ha speso un sacco di soldi per farlo curare, perché si insomma vuole fare qualcosa, eh. Non malattia ne sta facendo, Ci tiene più al cane, si tiene che ai figli. E quando ce l'hai lui ti affezioni, per poco di peggio, lo sei meglio di me, dai. Vabbè. Allora adesso conviene fare una cosa, fare l'assicurazione del cane, perché tutte le cose che c'ha te la paga l'assicurazione, operazioni, lì fai il vaccino, te lo paga l'assicurazione, hai un incidente, te lo mettono sotto e sfascia qualche macchina e te lo paga l'assicurazione, conviene fare l'assicurazione. E tu assicurato? No, il mio no, ma ne stavo parlando con questa amica l'altro giorno che c'è il cane e mi ha detto guarda già, è una cazzata, paghi una fesseria al giorno. Lo so, però alla fine lo so, però come ne fanno un cane di razza che costa, se ti muore te lo schiacciano, te lo pagano, un cane un medicino te lo pagano. Non è tanto all'anno che paghi, solo che poi se tu devi fare qualsiasi operazione, guarda Natalina ha speso 1200 euro per fare l'operazione al cane quando gli ha rotto l'osso quel pitbull che l'ha morsicato, gli ha rotto l'osso e ha pagato 1200 euro per operare. 1500. O 1500, vedi? Conviene sempre fare l'assicurazione, Natalia. Io parlo con questa amica mia, si paga una cazzata e tutte le cose te le paga l'assicurazione. Lì fai una visita, te la paga l'assicurazione. Tutto al 100% ti pagano. Sì, e quanto si paga, vero? Ma bisogna andare a vedere, non lo so. Non me l'ha detto, ma ha detto che è una fesseria. C'è anche su internet adesso. L'ho visto da poco su internet che c'è questa assicurazione per i cani e c'è scritto che pagano al 100% sia le operazioni sia tutti i vaccini, tutto quello che li fa. Io ho capito, bisognerebbe informarsi. Infatti, perché è una cosa buona, non è una cosa... se ti tolgono le spese quando devi fare queste cose qua, è una cosa buona. Già i vaccini costano 50 euro. Sì, infatti. Loro praticamente dal numero delle persone c'hanno il guadagno, però intanto ti pagano tutto. Se succede qualcosa di grave come è successo al mio, ti pagano tutto, andare. Te lo grido. Però credo che va bene. Vabbè, ma io vi lascio, sto chiudendo che vado a portare giù a Tyson, qui mi sta guardando, ma tu se lo vedi guarda, è una cosa con le orecchie dritte e con la testa girata, ha capito che lo devo portare, ma ti immagini? Sì, cazzo, ha capito, io mi comprendi, che c'è un cazzo e fui muovere la moglie, lo mattessi, tutto capisce. Sì, lui gira la testa, come io saluto, lui gira la testa e mi guarda, ecco, vedi, io... mi sta guardando, è troppo bello. Va bene, là, ci sentiamo ragazzi, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, che adesso anch'io me ne vado a mangiare. Ci sentiamo alle prossime.